I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Se c'è un paese che non può lamentarsi di essere nell'euro, di come l'area euro sia stata gestita in questi anni, è proprio la Germania. Anche i dati arrivati ieri, che hanno segnalato una disoccupazione ai minimi storici, mai così bassa da 25 anni, vanno infatti in questa direzione. E la stessa direzione sta prendendo il governo tedesco, che ha annunciato una manovra finanziaria in cui vi saranno 15 miliardi di euro di sgravi fiscali per le piccole e medie imprese tedesche e per i contribuenti a basso reddito. Certo, in primo luogo il merito è dell'economia tedesca e quindi anche del suo governo, che chiuderà l'anno con i conti in pareggio. Ma se si aggiunge a questo dato anche la previsione fatta dall'istituto tedesco IFO, in cui nel 2016 la Germania dovrebbe avere un record mondiale nella bilancia commerciale pari a 280 miliardi di euro, beh, si giunge anche a un'altra conclusione, ossia che gli squilibri dentro l'area della moneta unica continuano a ampliarsi e non a ridursi. Il surplus della bilancia commerciale tedesca infatti era già nel mirino dei G20, del Fondo Monetario e della stessa Bruxelles. Bruxelles aveva chiesto a Berlino di non andare oltre il 6% del PIL nella differenza tra esportazioni e importazioni, e invece, come ricordavamo, il surplus tocca un nuovo record e va al 9% del PIL. Alla faccia di tutti gli inviti, Berlino ha tirato dritto, con il sospetto che, come diceva Orwell nella sua Fattoria degli animali, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Per ora niente ampliamento del QE, una sigla che avete imparato a conoscere, significa quantitative easing, cioè allentamento quantitativo, la scelta che fa la Banca Centrale Europea di non dare di liquidità ai mercati affinché questo fiume di denaro arrivi alle imprese e alle famiglie, insomma all'economia reale. Oggi la BCE, in una riunione molto attesa perché la prima dopo le ferie, ha deciso di lasciare invariati i tassi, e questo era atteso, e di non cambiare anche il programma di acquisto di bond sovrani e di bond societari a 80 miliardi al mese, e questo era meno scontato. Mario Draghi, presidente della BCE, ha comunque lasciato aperta la porta a un eventuale prolungamento di questo programma di acquisto di titoli, anche oltre il termine previsto nel marzo 2017. Importanti le stime diffuse oggi sempre dalla BCE. Il PIL dell'Eurozona crescerà quest'anno dell'1,7%, mentre a giugno si prevedeva crescesse dell'1,6%. L'1,6 invece sarà la crescita del 2017, e nel 2018 si avrà la stessa performance, mentre a giugno si pensava potesse essere superiore, vale a dire 1,7%. L'inflazione invece resterà bassa nei prossimi mesi ed è prevista a più 0,2% nel 2016, che rimane appunto invariata nella stima, e a più 1,2% nel 2017. Draghi ha ammesso che nello scenario di base l'inflazione impiegherà un po' più di tempo del previsto a raggiungere il livello al di sotto, ma vicino al 2%, che è il target della BCE, ma ha specificato che non servirà molto più tempo. I rischi prevalenti sono comunque di un peggioramento delle prospettive economiche nei prossimi trimestri, a causa della domanda internazionale debole e degli esiti del referendum su Brexit. Le borse si aspettavano qualcosa di più e speravano in un annuncio più dettagliato di un nuovo QE, magari da estendere anche all'acquisto di azioni di società europee, ma di questo non si è parlato e per questo hanno reagito male. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.